Tutti convocati Magazine di Carlo Genta. Buonasera a tutti, Franco Piantanide, autore di questo programma, anche al sabato, Roberto Scaltritti in regia. È inutile che stiamo a raccontarvi tante storie sulla partita che avete visto tutti ormai molte ore fa, cioè Napoli-Juventus, quella che era, doveva essere la sfida scudetto. Vogliamo invece andare indietro lungo questa settimana che ha portato, che ha riportato a Napoli. Ieri, come sapete, abbiamo avuto ospite l'anfitrione di Maradona, Beppe Bruscolotti, appena riportato il Pibe d'Oro in Italia. Allora, oggi non faremo la top 3 degli ascoltatori della settimana, ma non perché vi voglio male, perché c'è Maradona, e quindi ascoltiamo invece il podio delle dichiarazioni di Diego Armando Maradona, tornato in Italia. Non gli è stato sequestrato niente, almeno a quanto pare. Vuole tornare presto, vuole allenare il Napoli, tra me e Messi non c'è paragone. Insomma, è il solito Diego Armando Maradona. Numero 3. Non sono neanche uno che sta pensando nella panchina del Napoli, perché sarebbe come mancare il rispetto a Mazzarri. Quando Mazzarri va la via, lì il mio sogno è... Sta Mazzarri. Mi hanno detto che la Roma e l'Inter stanno per vendere Mazzarri. Magari. Beh, insomma, non se ne lascia mancare Maradona, no? Speriamo che vada la Roma, speriamo che quella panchina si liberi, la vorrei io. In pieno spirito Magazine, la cronaca bandita, torniamo sulle cose che più ci hanno divertito in questa settimana di sport e di parole. Parole come quelle nei confronti del grande rivale di sempre, che insomma ha parole, ma a mio parere anche con un pallone tra i piedi, Maradona batte e batterà sempre. Allora, Diego su Pelé. Il paragone di Messi, io non me la prendo mai con questo. Con Pelé sì, con Pelé sì, perché a Pelé non lo perdono, non per il suo colore, per quello che parla. Perché quando prende il frasco di pastiglie buono, parla bene, però quando se ne cambia il frasco, dice qualsiasi stupidaggine. È il frasco, Dieghito, è il frasco di Pelé. Ma sul primo gradino del podio delle dichiarazioni maradonesche ci sono ancora parole dedicate a Pelé. Mia madre, quando era in vita, mi diceva: perché ti paragonano con Pelé? Se tu sei più forte. Pelé giocava con giocatori che non si muovevano in campo. Comunque, avete sentito, potremmo a questo punto anche rimandare dichiarazioni di archivio di quando Maradona era CT dell'Argentina, quel giorno si qualificò per i mondiali, ma sono, oltre che meravigliose, troppo scurrili. Chi ve la ciupan, ve lo ricordate, Dieghito? Insomma, forse qualche volta sbaglia le pastiglie anche lui, e non voglio essere per nulla malizioso su questo. Invece restiamo sull'argomento Maradona, perché c'è Tacconi, ex portiere della Juventus, cui Maradona segnò forse il gol più iconografico della sua storia italiana, quella punizione a due dentro all'area della Juventus sotto la pioggia, quella palla alzata sotto la traversa in maniera impossibile. Allora, Tacconi, che è stato in settimana ospite di Sport Italia, è tornato su quel gol, addirittura ringraziando Dieghito. Quel gol che mi ha fatto, ma io sono orgoglioso di quel gol. Tu sei ancora orgoglioso di quel gol, perché prendere gol da Maradona è un vanto? Ma porco Giuda, insomma, se lo paravo non mi calcolava nessuno. Meno male che l'hai preso, allora. No, se lo prendevano mi davano 8-9 in pagella e poi finiva lì. Insomma, adesso sono 25 anni che me lo fanno vedere tutti gli anni, insomma. 25 anni me lo fanno vedere tutti gli anni, anche più volte l'anno, quel gol che in questi giorni abbiamo peraltro rivisto almeno 15 volte. Ma c'è un'altra dichiarazione di Tacconi a proposito del parallelo non tra Maradona e Pelé, che è qualcosa di ormai superato, ma tra Maradona e Messi. Allora, Tacconi è più forte, Messi o Maradona? Credo che Maradona non c'è tre o quattro Messi che possono ottenere, insomma. Ma non è che è imprendibile, oggi è imprendibile Messi perché nessuno lo marca. Maradona ha giocato contro grandi campioni, contro grandi difensori. Era molto più difficile arrivare in area. Io ho sempre detto che se Messi oggi giocava con Gentile e Brio era San Raffaele, insomma. Inferno, ma perché? Non per Messi o Messi, come lo chiama Tacconi, non per Messi o Maradona, ma per la settimana milanista. Questa sera, sapete, il Milan gioca una partita determinante per il suo cammino in campionato, riceve la Lazio, non ci sarà Balotelli, che quindi può tranquillamente andare in discoteca anche il giorno della partita. Non so se è andato il giorno della partita, non ho notizie su questo, tanto è indisponibile. Allora, Balotelli e Disco Inferno. Galliani. Le serate in discoteche dopo le partite sono messe, quindi vanno tutti in discoteca. Se dovessimo chiudere se dovessimo proibire ai calciatori di andare in discoteca dopo le partite, chiudono le discoteche. Sulla storia della febbre nessuno di noi la sapeva, io non lo sapevo, ma non lo sapeva neanche l'allenatore e credo anche il medico, non lo so. Si vede che nomineremo Raiola nuovo medico del Milan. Raiola, il nuovo medico del Milan, già ha molte cariche Raiola nel Milan, perché come sapete quando c'è un giocatore da prendere scatta la telefonata a Sua Maestà Mino Raiola. Allora, a proposito di Disco Inferno, a parte che confermo quanto ha detto Galliani, perché chiunque sia stato abbia un minimo frequentato i dopo cena, diciamo così, milanesi, locali milanesi della domenica sera, ci ha trovato qualunque calciatore, compresi Chiellini, compresi Pirlo, compresi tutti quanti, insomma, ha ragione Galliani su questo. Però c'è un altro inferno e un altro fuoco, quello che aspetta il Milan sul campo di un Barcellona, deluso e ferito dal momento, deluso e ferito molto crudelmente dal Real Madrid di Mourinho in Coppa del Re. Eppure c'è Iniesta che sul fuoco dell'inferno mette la mano. L'unico messaggio è che, come ho detto al principio, a día de hoy es difícil decirlo después de la eliminatoria que tuvimos ayer. Pero pongo la mano en el fuego por mi equipo para pasar la eliminatoria. Es lo que tenemos que pensar todos. Dunque, Iniesta dice: passeremo il turno con il Milan, rimonteremo quel 2-0, metto la mano sul fuoco. Gli risponde ancora quel grande uomo di ballo e di serate, che sapete tutti è Adriano Galliani. Iniesta comunque è un giocatore straordinario, per cui evidentemente, d'altra parte, è un grande giocatore del Barcellona, non può dire certamente che passa a Milan, vediamo, insomma. Comunque, se mette la mano sul fuoco, perde la mano, se passiamo noi lo prendiamo anche senza mano la Noventura, perché è un grande giocatore, è una battuta di spirito. E senza mano lo prendiamo noi, se mette la mano sul fuoco e la perde, passiamo il turno e lo prendiamo noi, dice Adriano Galliani. Chiacchiere, ma c'è anche in questa settimana abbiamo scoperto un nuovo idolo di tutti i convocati, immagino anche vostro, di Franco Piantanida di sicuro, cioè il potenziale, ormai ex potenziale interista John Carew. Come stai? Bene. Sei in forma? Sì, sto bene. Com'è questa opportunità dell'Inter che è uscita? Se la vita. Sì, sto bene. Bisogno di allenare un paio di settimane con la squadra, ma mi sento bene. Questi mesi cosa hai fatto? Viaggiando molto e fatto un film. Veni, vidi, non vici, rispedito al mittente alla velocità del lampo John Cario. E io, come ho fatto in settimana, vi invito ad andare su YouTube e a vedere quel video con John Cario e quelle due magnifiche smandrappone tutte tatuate, perché questo è ciò che è oggi un giocatore che già quando era giocatore di pallone non era un fulmine di guerra. Immaginatevi ora, dal meglio di sé, guardatelo su YouTube. Tutti convocati Magazine. Fino adesso bene, cioè, sicuramente c'è ancora tanto da fare, il tempo non sta aiutando molto, però cioè, stiamo provando a fare il massimo possibile anche con un tempo brutto così. Proviamo a avere il più informazione possibile, anche se non è una condizione adatta, per capire meglio la macchina, tutte le gomme, tutte le cose per il bene, no? Sì, la fiabilità è importante anche per arrivare alla prima gara e essere sicuro che tutto funziona bene, che i problemi non ci sono, no? E così sappiamo che è importante avere la macchina competitiva, ma è importante avere la macchina che arriva alla fine delle gare. Questo era Felipe Massa, lo avrete riconosciuto, si alza il suono dei motori, ormai il mondiale, il via del mondiale dietro l'angolo, e mi sembra che questo sia il punto cruciale, cioè arrivare subito competitivi, non come l'anno scorso, cominciare a correre con la zavorra sulle ruote, con la zavorra nell'abitacolo. Si sentono i motori, si sente anche Mario Poltronieri. Ciao Mario. Ciao Carlo. Allora, cosa dici? Quest'anno la Ferrari, l'obiettivo della Ferrari è quantomeno arrivare al pari degli altri al primo semaforo stagionale. Beh, diciamo che dalle dichiarazioni che sono state fatte, dalle prove che si sono viste e si stanno vedendo, diciamo che loro considerano, parole di Domenicali, che se sono a due decimi dal migliore possono praticamente essere in corsa per vincere. Questa è la situazione al momento. Che mi preoccupa in proiezione futura è però che l'anno 21 cambia la formula, si passa al 1.6 turbo, quindi una macchina completamente nuova anche nell'aerodinamica. Io ho la sensazione che queste prime gare saranno determinanti per decidere se insiste a sviluppare la macchina di quest'anno per cercare di vincere il campionato, o se abbandonarla al suo destino e guardare la progettazione dell'altra, che evidentemente richiede molto impegno ai tecnici. Ecco, quindi queste prime gare sono estremamente importanti, non solo per il risultato, ma per dimostrare qual è il livello di competitività della macchina in questo momento. Sì, però Mario, io non credo che la Ferrari, dopo tutta questa astinenza, sia in grado di pensare all'anno prossimo. Io credo che questa sia una stagione in cui la Ferrari, non ti dico che abbia l'obbligo di vincere, perché questo obbligo non si può accollare a nessuno, però l'obbligo di combattere fino all'ultimo giro di pista, anche perché si è letto, si è sentito nel corso dell'inverno che potrebbe essere, insomma, una stagione cruciale anche per la prosecuzione del rapporto tra la Ferrari e quello che oggi io continuo a considerare il più forte pilota del mondo, e cioè Alonso. E quindi io non credo che la Ferrari possa permettersi di buttare le ortiche questa stagione pensando all'anno prossimo. Ma senza dubbio, io sono completamente d'accordo con te che Alonso è sicuramente il migliore, quindi se il mezzo c'è, evidentemente è anche il pilota vincente. La mia preoccupazione però è che sì, Montezemolo naturalmente vuole che si vinca quest'anno, ma non si può dimenticare che il campionato continua. Comunque adesso non andiamo troppo lontano, restiamo sulla situazione attuale. Io credo che le macchine siano abbastanza vicine come prestazioni. C'è una novità che tutto sommato potrebbe complicare un po' le cose, cioè il fatto che la Pirelli ha scelto di fare delle gomme ancora meno durevoli, chiamiamole così, che è una cosa, cioè per imporre almeno due soste ai box. questo dal mio punto di vista personale mi dà un po' fastidio, perché la corsa non può essere decisa dai meccanici se sono più bravi o meno bravi ai box. Però, anche perché sono anni che vediamo corsa decisa ai box e siamo un po' stufi. D'altra parte la filosofia di Eccleston è quella di dare comunque spettacolo, quindi lui ha bisogno che le vetture siano vicine, non si può pensare alle vetture che hanno i grandi distacchi. Il resto, vedi l'impegno che ci mette adesso Sky per cercare di fare qualche cosa di spettacolare, quindi io ritengo che questa soluzione, diciamo, delle gomme che durano un po' meno non pregiudicherà, se sono riusciti in queste prove a capirle. In questo momento, per esempio, Alonso sta girando con le gomme dure, ma ci sono le medie e le soft ancora da provare. Quindi, tenendo presente che questi giorni sono stato sempre in terreno bagnato, eccetera, si arriva alla corsa del 17 di marzo in Australia, e credo ancora nella situazione di qualche incertezza. Il risultato australiano sarà determinante, anche perché il timore di essere copiati sulle soluzioni aerodinamiche è così spasmodico che praticamente questi aspetteranno l'ultimo momento prima della partenza in Australia per cambiare gli ultimi particolari che ritengano possano essere quelli vincenti. Ecco Mario, hai citato en passant Sky, poi torniamo sulle macchine di adesso, sulla Red Bull, se ancora la macchina da battere, su quali saranno le novità stagionali, eccetera. Una delle grandi novità stagionali dal punto di vista televisivo, anzi la grande novità, sarà Sky, che promette cioè questo tantamo ormai iniziato da Natale o forse prima, la Formula 1 come non l'avete mai vista prima. Ieri mi telefona un ascoltatore e dice: beh, però insomma, in un momento di crisi come questo ci tocca pagare anche per vedere ciò che prima vedevamo gratis su Mamma Rai, e cioè la Formula 1. Io sono dell'idea che insomma nel 2013 non è così scontato e non è così detto che lo sport debba essere gratuito. Lasciamo stare il discorso del canone. Certo è che insomma per i tifosi ci si dovrà attrezzare. E beh, insomma, d'altra parte, come si dico, ci sono state anche, tra l'altro, delle situazioni abbastanza difficili per Sky, perché naturalmente gli sponsor hanno detto: ma questo non ci dà la garanzia degli ascolti che ci dà la Rai. Quindi adesso vedranno probabilmente se fare delle repliche, quali, quante, a che ora con la Rai, perché effettivamente anche per i costi che dici tu, diciamo gli utenti di Sky sono tanti, ma ovviamente non sono come quelli della Rai. E io personalmente, per quello che vedo nelle prove che stanno facendo e così via, non mi dispiace il lavoro che fanno, anche se è evidente che con tutti questi canali dedicati, se uno comincia a lavorarci attorno, va a finire che diventa un videogame più che guardare una corsa. Quindi bisognerà che almeno i commentatori lasciano il fiato, perché tu sai che 2 secondi di silenzio in radio ti fanno pensare che si sia fermato qualcosa. Sì. 2 secondi di televisione sono invece quell'attimo di respiro in cui, se sei con qualcuno, puoi parlare, e se no metti ordine alle idee. Ora, i miei amici della Rai l'anno scorso avevano una tale frenesia nel commento che secondo me non consentiva di apprezzare veramente la corsa. Non ti nascondo che io molte volte appunto abbassavo l'audio. Quest'anno ti dirò, il fatto che ci sia Jacques Villeneuve mi tranquillizza, perché è uno che parla, non dico coi ritmi del presidente Monti, ma comunque con molta calma. Quindi questo può essere una garanzia, nel senso che Villeneuve comunque è un personaggio così autorevole che non lo si può sovraccaricare di troppe parole, chiamiamolo così. Questa è una lezione, gratis per chi ci ascolta, professore. Senti, un'ultima cosa, ultimi 2 giri di pista, ultimi 2 minuti d'orologio per inquadrare, cominciare ad inquadrare questo mondiale. Red Bull sempre macchina da battere, quali le novità stagionali secondo te? Beh, diciamo che le novità purtroppo sono tutte del tipo aerodinamico e non abbiamo la possibilità, tranne i risultati in corsa, del capire di tutto quello che stanno facendo. Sai, io sono sbalordito di come si sono lasciati abbandonare questa aerodinamica, perché Montezemolo l'ha detto più volte, non è possibile che il 90% del risultato dipenda dall'aerodinamica, salvo poi se la Ferrari vince, che allora si dimentica di aver detto questo. Però effettivamente qui c'è un'esasperazione e secondo me, senti, io penso, adesso tu dirai che è un ricordo molto strano, ma mi ricordo che il Messerschmitt 109, e dunque andiamo indietro un po' di anni, quando aveva dei problemi perché a un certo punto le mitragliatrici erano state più potenti, quindi ha messo un holder, per dirlo come piace al mio amico Piola, di 1 cm x 10 sull'impennaggio verticale, e l'ha stabilizzato. Sì. Ora io dico un'altra cosa, ma ti rendi conto che i box della Formula 1, in ogni box di ogni squadra e nella casa madre collegati, ci sono il doppio dei computer che ci sono nella sala controllo di Cape Canaveral? Sì. Ti pare una cosa che ha senso? Questo, oltretutto, ti dirò, mortifica il pilota, perché lo mette nella condizione di non sentire la possibilità di dire quello che lui veramente pensa e sente. Del resto, l'allontanamento, diciamo, di Schumi, che cosa è dovuto? È dovuto al fatto che Schumi era un pilota che è giù il piede, certo, e tirare. Ma ti ricordi Niki Lauda quando diceva: io la macchina la guido con il culo? È chiaro, la sento così. Il nostro simpatico, anche per te, Button, riesce spesso a ottenere dei risultati pur non essendo il top, come diciamo può essere Alonso o lo stesso Hamilton, vedremo con la nuova macchina, perché sa amministrare il mezzo. Però sai, la chiave di volta della Formula 1 però in queste stagioni è che deve essere spettacolo, quindi tutto è stato organizzato in modo che ci siano delle macchine vicine. A me piacevano di più quando sbandavano, queste non sbandano, però insomma io credo che ci divertiremo comunque. Certo, il discorso dei costi per gli spettatori possono incidere, per chi non ha già il calcio. Sì, no, questo è evidente, tutti al bar, insomma. Grazie Mario, ci sentiamo presto. A presto. Un abbraccio Mario. Tutti convocati Magazine. Alla fine il test è andato bene, sono contento, anche se probabilmente forse era andato un po' meglio l'altro test, ecco. Perché comunque ero riuscito a girare un po' più forte, le condizioni nei 3 giorni erano state migliori, avevamo fatto un lavoro migliore e soprattutto in questo secondo test abbiamo avuto un po' di problemi sulle moto, abbiamo avuto un po' di sfighe, piccoli problemini che ci hanno fatto perdere un po' di tempo, ecco, però alla fine comunque il bilancio positivo. Penso che il bilanciamento della moto sia il nostro punto di forza, ecco. Quindi una moto che si riesce a portare al limite, si riesce a spingere forte. Il problema è che ci manca un po' di trazione in accelerazione, dove è il nostro punto debole, e ci abbiamo provato a lavorare un po'. Il problema è che per trovare più trazione perdiamo un po' questo bilanciamento che è il nostro punto di forza, ecco. Quindi alla fine veniamo via dalla Malesia senza aver risolto tutti i problemi al 100%, ecco. Guidare la Yamaha, guidare la MotoGP di adesso è molto emozionante, molto divertente. Sono contento, sono felice, perché comunque quest'anno partiamo per provarci, per lottare, per salire sul podio, e poi vediamo cosa succede. Valentino Rossi ai microfoni di Sky. Ma al di là di quello che dice, la mia sensazione è che proprio dal tono della voce quasi esca la ritrovata voglia di Valentino Rossi di parlare di moto, sembra ringiovanito ma sul serio, come aveva detto lui. Il mio amico Roberto Ungaro, direttore di Riders, ex pilota, commentatore, insomma l'uomo delle moto. Ciao Roberto. Ciao Carlo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Non è anche tu questa sensazione? Hai perfettamente ragione, energia, bravo, bravo. Chi è stato lì mi ha detto che è magro, fa paura, è una molla, è tornato a essere il bambino che era, sorridente, anche se più maturo, più uomo, ha più rughe in faccia, più interessante se vuoi, però gli è tornata la voglia, il desiderio, e quella è la chiave di volta. Lo sai che senza quella non fai nulla, e quindi lui ha fame, gli è tornata fame, e questo è bellissimo. E cioè, ci credo, dopo la lunga stagione del digiuno rosso, Roberto, per un agonista vero, puro come Valentino Rossi, non poteva che essere. O smetteva e ingrassava e si dava la bella vita, come certamente poteva fare con un sacco di quattrini e vivere con tutte le donne che voleva in ogni parte del mondo, oppure tornava magro e gli tornava. Non questa è da fame, lui, eh? Difficilmente ingrasserà. Un uomo che si è costruito su una collina, la pista di divertimenti, e non una semplice pista da cross, ma un parco giochi a motore, e ti dice tutto. Lui vivrà sempre con il motore dentro, che sia quattro ruote, due ruote. Cioè, lui ama l'equilibrio instabile, ha bisogno di quella instabilità esteriore, non interiore. E quindi, guarda, rinasciamo, perché le moto è come se rimettessi la spina, la corrente al mondo moto intero, e tutto si rigenera, capisci? Al mondo moto intero, che è la nostra vita, Roberto. Ne aveva bisogno. Sì, la nostra malattia, no? In quell'equilibrio precario abbiamo bisogno di essere, quel brividino, senza il rischio. È il brivido, ma non il rischio. Questo è l'andare in moto. Senti, ma parliamoci onestamente, Valentino Rossi può vincere il mondiale? Guarda, Valentino... Lo so che è difficile, È difficile, però ragazzi, se azzecca subito e parte bene, mentalmente li uccide, perché li schiaccia. I due lì della Honda, io quello che mi fa paura è Marquez, perché se vedi come ha finito ieri, l'ultimo giorno di prove, è a 81 millesimi, è lì, dietro Pedrosa, è davanti a Lorenzo. Questa è una cosa, tra l'altro Lorenzo mi dicono ingrassatello, cioè abbastanza non rilassato, perché insomma poi ieri è andato di media, il passo l'ha fatto velocissimo a martello, però lui si sta comportando da campione del mondo un attimino, no? Cioè vuol far vedere che il numero uno c'era lui, ma le Honda fanno paura come moto, prestazionalmente parlando. Dani Pedrosa ha risolto il problema del peso aggiunto e quindi riesce a guidare bene, ma Marquez è lui la sorpresa. Secondo me Vale può comunque ambire al titolo mondiale, non sarà facile assolutamente, ma può farcela. Diciamo che sono questi quattro nomi, sono due nomi di case, Honda e Yamaha, e sono quattro nomi di piloti: Pedrosa, Marquez, Lorenzo e Valentino. Ah sì, poi dietro c'è il vuoto, dietro fanno un altro sport. Vedi che la Yamaha è una moto bilanciata, perché Crutchlow è subito lì, è vicino, bravo, però, quindi la moto c'è. Bravo Dovizioso, oggi mi ha fatto morire sulla Gazzetta l'affermazione a chiusura del pezzo. Dovizioso è venuto in azienda più lui in questo mese che Valentino in due anni. La dice tutta e la dice lunga sulla volontà comunque che ha Andrea di costruire qualche cosa. Si è avvicinato un secondo e 88 il suo distacco, ma ci vuole progetto nuovo, la moto nuova che sta guidando Pirro, e quella la vedremo solamente a metà stagione, quindi le prime gare saranno così. Dimmi ancora due cose su Marquez, la grande novità stagionale. Che tipo di pilota è? Che ragazzo è? Chi ti ricorda? Che musica suona? Suona questo rock. Ragazzi, sì, questo scriverà la storia, perché addosso ha simpatia e gioia, alla carica giusta, è disponibile con tutti. Pensa che in Spagna in tre anni è più famoso lui addirittura di Pedrosa e di Lorenzo, perché gli altri due sono un po' musoni, hanno giocato a nascondersi uno con l'altro, e lui niente, spontaneo, è un po' come il nostro Vale all'inizio, sembra di rivedere lui, non ha forse quell'ironia, quella cosa speciale che c'è dentro, magica Vale, ma fa paura, e i meccanici, chi gli sta vicino, dicono che è veramente il nuovo Stoner, forse qualcosa di più. Quando finirà la guida e riuscirà a capire meglio la moto, secondo me lui sarà il riferimento anche di Pedrosa e Lorenzo. Senti, bastano poche gare là. Ma non ho dubbi su questo. C'è alla Ducati, c'è anche questa notizia del papà della Desmo 16, cioè Filippo Preziosi, che lascia. Cosa vuol dire questo abbandono? Quale politica sportiva si attuerà a Borgo Panigale? Allora, è sempre stata baricentrica su un uomo solo, il reparto corse o il prodotto. È arrivata Audi e adesso arriverà il metodo. e quindi non ci sarà più solo una persona, ma si cambierà completamente registro. Secondo me i tedeschi, la loro perfezione, il loro metodo può far solo del bene alla Ducati, che deve avere col DNA a Bologna, ma se guardiamo Lamborghini, quello che ha fatto Audi con Lamborghini è molto positivo, la stessa cosa faranno lì, quindi cuore, ragione, passione, il sugo bolognese deve rimanere lì, con la freddezza, il metodo e la perfezione della Germania. Mettere insieme questo acqua e olio, che non è facile, viene fuori il mix vincente. Roby, ti chiedo un'ultima cosa, campionato Superbike, appena iniziato, come lo inquadri? Come lo classifichi, qualifichi, vedi, leggi? Allora, la sorpresa è Max Biaggi, che ha superato la prova, nel senso che è piaciuto a tutti, devo sì. dire che... Anche a te, ti è piaciuto? Ma sì, lo dico onestamente, devo dire che anticipava quello che poi accadeva e quindi ha detto quello che diceva era giusto, è stato un valore aggiunto per la telecronaca. E quindi devo dire che insomma lui, che ha vissuto tutto, era lì fino all'altro ieri, sa delle cose che quando poi ce le dice in effetti è un valore aggiunto della telecronaca. E per quanto riguarda il campionato, bello, perché i valori in campo, la Ducati subito abbastanza veloce e forte, può essere anche lei protagonista nel gioco. Puntare oggi su chi vincerà il titolo non è facile. Aprilia, ok, ha fatto vedere che anche senza Biaggi si può vincere, però è solo la prima gara, poi vediamo le altre e rimane un bel campionato. La Dorna, secondo me, l'anno prossimo cambierà un po' di cose, ha in mano un bel giochino, non deve essere rovinato, non deve diventare una MotoGP dei poveri, certo. Deve rimanere quella che è, però ha tutte le carte per interessare, deve fare il salto qualitativo. Roberto Ungaro, direttore di Riders, io ti ringrazio come sempre. Grazie a te Carlo, alla prossima, un saluto. Tutti convocati Magazine. Dunque, lui è stato un campionissimo, ha portato a casa un sacco di medaglie, adesso ha commentato invece il buco nero che per lo sci stretto italiano sono stati questi mondiali in Val di Fiemme. Fulvio Bubu Balbusa, ciao Bubu. Salve a tutti, ciao. Allora, sono quelli della crisi, sono quelli della crisi più nera. Purtroppo sì, non stiamo raccogliendo niente finora, quest'oggi la staffetta ancora una volta ci ha relegato a quella che è la più brutta medaglia che si possa prendere, la medaglia di cartone, così chiamata da tutti gli sportivi, e purtroppo è andata così, sì, un po' di rammarico perché come si erano messe le cose, tenuta perfetta in tecnica classica, nelle due frazioni più critiche per noi. E poi abbiamo mollato dove eravamo forti, dove magari si poteva pensare a fare qualcosa di storico qui in Val di Fiemme. Purtroppo sì, questo cambio generazionale lo stiamo veramente accusando tantissimo, e cosa dire ancora? Così. Diciamo che non è facile passare da una generazione di fenomeni al maschile, al femminile, a un mondiale di insuccessi e di delusioni profonde. È chiaro che ci vuole tempo, ci vuole pazienza, no? Per il ricambio generazionale tra voi e quelli che verranno. Il fatto vero però è che in questo mondiale non abbiamo visto nulla. Ma in questo mondiale è stato veramente opaco per noi. C'è stato questo squillo, questo oggi è di una staffetta, noi sappiamo benissimo che la staffetta la sentiamo come squadra italiana, l'abbiamo sempre sentita, sia in campo olimpico e anche ai mondiali, eravamo sempre protagonisti. Siamo stati protagonisti fino a 50 metri dalla fine, e a dir mio, se volete sapere così, la mia opinione è stata proprio un non crederci fino in fondo, perché una volta passato gli ultimi 150 metri, quando iniziava il rettilineo finale, sembrava che sia stato così, le carte erano state spianate da tutti quattro concorrenti, e noi avevamo praticamente una carta da giocarsi, ma non ce la siamo giocata come dovevamo fare, perché secondo me David Hofer doveva osare di più dall'inizio fino alla fine, avevamo un ballo, una medaglia che sarebbe stata non solo una medaglia, sì, ma quello che sarebbe stato un bilancio forse un attimino migliore di quello che